Terzo anello, ad alta voce. Il Conte di Montecristo, di Alexandre Dumas. Avanzate, disse Montecristo a Franz. Ecco qui Luigi Vampa, che si dirà dispiaciuto dello sbaglio commesso. Franz si fece avanti e il capo dei banditi gli andò incontro di qualche passo. Siate il benvenuto in mezzo a noi, eccellenza, gli disse. Dov'è il prigioniero? Disse Franz guardandosi intorno con inquietudine. Non gli è accaduto niente, spero, disse il conte aggrottando la fronte. Il prigioniero è di là, disse Vampa mostrando con la mano il luogo oscuro davanti al quale passeggiava il bandito di guardia. Vado io stessa ad annunciargli che è libero. Il capo avanzò verso il luogo da lui indicato come prigione di Albert. Il conte e Franz lo seguirono. Che fa il prigioniero? Domandò Vampa alla sentinella. Parola mia, capitano, rispose questi. Lo ignoro, è da più di un'ora che non lo sento muoversi. Venite, venite, c'è lei, venite, disse Vampa. Il conte e Franz salirono 7 o 8 scalini, sempre preceduti dal capo, che tirò un catenaccio e spinse una porta. Allora, al chiarore di una luce simile a quella che illuminava il columbarium, si poté vedere Albert, avvolto in un mantello prestato da un bandito, steso in un angolo, dormire del sonno più profondo. Accidenti, disse il conte con quel suo sorriso particolare. Non c'è male per un uomo che doveva essere fucilato domattina alle 7. Vampa guardò con una certa ammirazione Albert che dormiva e si vide che non era rimasto insensibile a quella prova di coraggio. Avete ragione, signor conte, disse. Questo giovane deve essere uno dei vostri amici. E accostandosi ad Albert e toccandogli la spalla. Eccellenza, disse. Vi dispiace svegliarvi? Albert stese le braccia, si strofinò gli occhi e li aprì. Ah, disse. Siete voi? Per Dio, avreste ben potuto lasciarmi dormire. Stavo facendo un bellissimo sogno. Sognavo di ballare un galop dai Trollonia. Guardò l'orologio per controllare il tempo trascorso. 1:30 del mattino, esclamò. Ma mi svegliate a quest'ora? Per dirvi che siete libero, eccellè. Mio caro, disse Albert con perfetta prontezza di spirito, ricordatevi bene in avvenire di questa massima di Napoleone il Grande. Non mi svegliate che per le cattive notizie. Ah, se mi aveste lasciato dormire, avrei terminato il mio ballo e ve ne sarei stato riconoscente per tutta la vita. Il mio riscatto è dunque stato pagato? No, eccellè. E allora, in che modo sono libero? Qualcuno, sì, insomma, a cui non posso rifiutare proprio nulla, è venuto a reclamarvi. Fin qui? Per Dio! Questo qualcuno è una persona molto gentile. Albert guardò intorno a sé e scorse Franz. Come? Disse. Siete voi, mio caro Franz, che spingete a tal punto la vostra devozione? No, no, non io, rispose Franz. Ma il nostro vicino, il signor Conte di Montecristo. Ah, oh, perbacco, il signor Conte, disse allegramente Albert accomodandosi la cravatta e i polsini. Siete un uomo veramente prezioso e spero vorrete considerarmi obbligato per tutta la vita, in primo luogo per la vicenda della carrozza e poi per questo. E così dicendo, tese la mano al conte, che rabbrividì nel porgergli la propria, ma tuttavia gliela diede. Il bandito osservò tutta la scena con aria stupefatta. Era evidentemente abituato a vedere i suoi prigionieri tremare davanti a lui, e ora ne aveva davanti a sé uno la cui scherzosa indole non aveva subito alcuna alterazione. Quanto a Franz, era molto contento che Albert, anche di fronte ad un bandito, avesse sostenuto l'onore nazionale. «Mio caro Albert», gli disse, «se volete sbrigarvi, avremo ancora il tempo di andare a finire la notte dai Torlonia. Riprenderete così il vostro ballo al punto in cui l'avete interrotto e non serverete alcun rancore al signor Luigi, che in tutta questa faccenda si è comportato davvero galantuomo». Franz e Albert salutarono. Il conte uscì per primo. Albert lo seguì. Franz uscì per ultimo. «Vostra eccellenza ha forse qualcosa da chiedermi?» disse Vampa sorridendo. «Sì, sì, lo confesso», rispose Franz. Sarei curioso di sapere qual era l'opera che leggevate con tanta attenzione quando siamo arrivati. I commentari di Cesare. È il mio libro preferito. Nella casa di Rue du Helder, in cui Albert de Morcerf aveva dato a Roma appuntamento al conte di Montecristo, tutto veniva preparato il mattino del 21 maggio per fare onore alla parola data dal giovane. Suonavano le 10:30. La vibrazione dell'orologio a pendolo non si era ancora spenta che la porta si aprì e Germain annunciò: «Sua Eccellenza il conte di Montecristo». Il conte comparve sulla soglia vestito in modo estremamente semplice, ma di un'eleganza squisita. «Signor Conte», disse Albert, «stavo proprio annunciando la vostra visita ad alcuni dei miei amici riuniti in occasione della promessa che avete avuto la cortesia di farmi e che ho l'onore di presentarvi. Questi signori sono il conte di Château-Renaud, la cui nobiltà risale ai 12 pari e i cui antenati hanno avuto posto alla tavola rotonda. Lucien Debray, segretario particolare del ministro dell'interno. Beauchamp, terribile giornalista, il terrore del governo francese, ma di cui forse, nonostante la sua celebrità nazionale, non avrete mai sentito parlare in Italia, visto che il suo giornale non vi può circolare. E infine il capitano Maximilien Morrel». A quel nome il conte, che fino ad allora aveva salutato cortesemente, ma con una freddezza e una impassibilità tutta inglese, fece suo malgrado un passo in avanti. E un leggero rossore passò come un lampo sulle sue pallide guance. «Il signore porta l'uniforme dei nuovi vincitori francesi», disse. «È una bella uniforme». Non si sarebbe potuto dire quale fosse il sentimento che dava alla voce del conte una così profonda vibrazione e faceva brillare suo malgrado i suoi occhi, così belli, limpidi e sereni, quando non aveva alcun motivo per velarli. «Ebbene, signore, sotto quell'uniforme batte uno dei cuori più coraggiosi e più nobili dell'esercito», disse Albert. «Ah, signor Visconte», interruppe Morrel. No, lasciatemi dire, capitano», continuò Albert. «Siamo appena venuti a conoscenza di un tratto così eroico del signore che, sebbene io lo veda oggi per la prima volta, da lui reclamo la cortesia di poterlo presentare come mio amico». E si sarebbe potuto, anche a queste parole, notare in Montecristo quello strano sguardo fisso, quel rossore fuggevole e quel leggero tremore della palpebra che in lui tradiva l'emozione. «Ah, il signore ha un cuore nobile», disse il conte. «Tanto meglio». Quella specie di esclamazione, che corrispondeva piuttosto al pensiero del conte che al discorso appena fatto da Albert, sorprese tutti, ma soprattutto Morrel, che guardò Montecristo con stupore, ma allo stesso tempo il tono della voce era stato così dolce e, per così dire, soave, che per quanto strana fosse apparsa quell'esclamazione, non c'era alcuna ragione di restarne offesi. Chateau Renaud, con l'abitudine alla gente e la limpidezza del suo colpo d'occhio aristocratico, aveva studiato Montecristo mentre parlava e sussurrò a Morrel: «In verità Albert non ci ha ingannati. È un personaggio singolare questo conte. Che ne dite, Morrel?» «In fede mia», rispose questi, «ha lo sguardo franco e la voce simpatica. È così, mi piace, malgrado la bizzarra riflessione fatta sul mio conto». «Signori», disse Albert, «Germain mi avverte che la colazione è pronta. Mio caro conte, permettete che vi faccia strada». E passati in silenzio nella sala da pranzo, ciascuno si mise al suo posto. «Signori», disse il conte sedendosi, «permettete una confessione che mi farà da scusa per tutte le sconvenienze che potrò commettere. Sono straniero, ma straniero a tal punto che questa è la prima volta che vengo a Parigi. La vita francese mi è dunque perfettamente sconosciuta, non avendo fino ad ora fatto esperienza che della vita orientale, la più antitetica alle buone tradizioni parigine. Vi prego perciò di scusarmi se troverete in me qualche cosa di troppo turco o di troppo napoletano o di troppo arabo. Detto ciò, signori, possiamo fare colazione». «In che modo ha parlato?» mormorò Beauchamp. «È decisamente un gran signore. Un gran signore straniero», soggiunse Debray. «Un gran signore di ogni paese, signor Debray», disse Chateau Renaud. Quando Albert si trovò solo con il conte di Montecristo, gli disse: «Signor conte, permettetemi di esordire nel mio compito di cicerone con il darvi un saggio dell'appartamento di uno scapolo. Abituato ai palazzi italiani, sarà per voi non piccola cosa calcolare in quanti metri quadrati possa vivere un giovane parigino che ha la fama di non essere male alloggiato. Albert introdusse il suo ospite nel salone, tappezzato di capolavori di pittori moderni. Albert supponeva di poter mostrare, almeno questa volta, qualcosa di nuovo allo strano viaggiatore. Ma con sua grande sorpresa, questi, senza avere bisogno di guardare le firme, alcune delle quali, tra l'altro, riportavano soltanto le iniziali, a ciascuna opera assegnava subito il nome dell'autore, e in modo tale che era facile accorgersi che non solo gli erano noti i nomi di questi autori, ma che aveva studiato e apprezzato ciascuno di questi talenti. Dal salone passarono poi alla camera da letto. Era un modello di eleganza e di gusto severo. Non vi era che un solo ritratto, ma firmato Léopold Robert, risplendente in una cornice d'oro massiccio. Questo ritratto attirò subito l'attenzione del conte di Montecristo, perché attraversò con passo rapido la stanza e si fermò di colpo, davanti ad esso. Era il ritratto di una giovane donna, dai 25 ai 26 anni. Carnagione scura, sguardo ardente ma velato. Portava il costume pittoresco delle pescatrici catalane, con il corsetto rosso e nero e spille intarsiate d'oro nei capelli. Guardava il mare, e l'elegante profilo si stagliava sul duplice azzurro delle onde e del cielo. La camera era nella penombra, altrimenti Albert si sarebbe accorto del pallore livido sulle guance del conte e avrebbe notato il fremito nervoso che gli sfiorò le spalle e il petto. Ci fu un momento di silenzio, durante il quale Montecristo rimase con gli occhi fissi sul dipinto. «Avete una bella amante, Visconte», disse Montecristo con una voce perfettamente calma. «E questo costume, certamente da ballo, le sta a meraviglia. Signore, questa volta vi sbagliate, ma posso perdonarvi», disse Albert. «Voi non conoscete mia madre, signore. È lei che vedete in questo quadro. Si fece ritrarre così 7 o 8 anni fa. Quel costume è di fantasia, a quanto pare, e la somiglianza è tanto grande che mi pare sempre di vedere mia madre com'era nel 1830. Si fece fare questo ritratto in assenza di mio padre. Senza dubbio credeva di preparargli una lieta sorpresa per il ritorno, ma, cosa bizzarra, questo ritratto dispiacque a mio padre. E il valore del dipinto, che come vedete è una delle più belle tele di Léopold Robert, non poté vincerla sulla sua antipatia. È vero, si è detto fra di noi, che il conte di Morcerf è uno dei pari più noti del Luxembourg, un generale rinomato per le sue strategie, ma è un conoscitore d'arte dei più mediocri. Non è così però di mia madre, che dipinge in un modo notevole, e che, stimando troppo tale opera per separarsene del tutto, l'ha regalata a me. Perdonatemi se vi parlo in tal modo di cose intime di famiglia, ma siccome avrò l'onore di presentarvi a mio padre, vi dico tutto ciò perché non vi sfugga un qualche elogio di questo quadro in sua presenza. Del resto il quadro ha un'influenza funesta. È difficile che mia madre venga in camera mia senza fermarsi a contemplarlo, e più difficile ancora che lo contempli senza piangere. La nube che portò la comparsa di questo dipinto nella casa è del resto la sola che sia sorta fra il conte e la contessa, i quali, benché sposati da più di 20 anni, sono ancora uniti come se fosse il primo giorno. Montecristo lanciò una rapida occhiata su Albert, come per cercare un'intenzione nascosta nelle sue parole, ma era evidente che il giovane le aveva pronunciate con tutta la semplicità del suo animo. Una porta laterale si aprì e Montecristo si trovò di fronte al conte di Morcerf in persona. Era un uomo fra i 40 e i 45 anni, ma ne dimostrava almeno 50. I baffi e i sopracigli neri contrastavano stranamente con i capelli quasi bianchi tagliati a spazzola, secondo l'uso militare. Era vestito in borghese e portava all'occhiello un nastro le cui strisce a diversi colori indicavano gli ordini di cui era decorato. Quest'uomo entrò con passo elegante, ma con una sorta di premura. Montecristo lo vide avanzare senza muovere un passo. Si sarebbe detto che i suoi piedi fossero inchiodati al parquet e gli occhi sul viso del conte di Morcerf. «Padre mio», disse il giovane, «ho l'onore di presentarvi il conte di Montecristo, quel generoso amico che ho avuto la fortuna di incontrare nelle difficili circostanze che conoscete». «Signore, voi siete il benvenuto fra noi», disse il conte di Morcerf, salutando Montecristo con un sorriso. «Nel salvare l'unico mio erede avete reso alla nostra famiglia un servigio che merita la nostra eterna riconoscenza». Dicendo queste parole, il conte di Morcerf indicò una poltrona a Montecristo, mentre egli stesso si sedette di fronte alla finestra. «È un grande onore per me», disse Montecristo, «essere messo in relazione fin dal primo giorno in cui sono giunto a Parigi con un uomo il cui merito eguaglia la reputazione e per il quale la fortuna giusta una volta tanto non ha commesso errore. Ma non ha essa ancora un bastone da maresciallo da offrirvi?» «Oh», replicò Morcerf arrossendo un poco, «io ho lasciato il servizio, signore. Nominato pari sotto la restaurazione, partecipai alla prima campagna agli ordini del maresciallo di Bourmont. E chissà ciò che sarebbe accaduto se la dinastia primogenita fosse rimasta sul trono. Ma la rivoluzione di luglio, a quanto sembra, era abbastanza gloriosa per potersi permettere di essere ingrata, e lo fu per tutti i servizi che non datavano dal periodo imperiale. Chiesi dunque le dimissioni, perché quando uno si è guadagnato le spalline sul campo di battaglia non sa assolutamente come muoversi sul pavimento sdrucciolevole dei saloni. Ho lasciato la spada e mi sono buttato in politica. Mi dedico all'industria e allo studio delle arti utili. Nei 20 anni in cui sono rimasto in servizio ne avevo il desiderio, ma non ne avevo avuto il tempo. Sono queste idee che dimostrano la superiorità della vostra nazione sugli altri paesi, signore», rispose Montecristo. «Gentiluomo di grande casato, possedendo una grande fortuna, avete inizialmente voluto guadagnarvi i primi gradi come soldato semplice, la qualcosa è molto rara. Quindi, divenuto generale pari di Francia, commendatore della Legion d'Onore, acconsentite a cominciare un secondo noviziato senz'altra speranza, senz'altra ricompensa che quella di essere un giorno utile ai vostri simili. Ah, signore, ecco ciò che può veramente dirsi una bella cosa. Dirò anche di più. Sublime. Ahimè», continuò lo straniero, «noi non ci comportiamo così in Italia. Cresciamo secondo la nostra razza e la nostra specie e conserviamo la stessa corteccia, la stessa statura e dirò anche la stessa inutilità per tutta la nostra vita». «Ma, signore», rispose il conte di Morcerf, «per un uomo del vostro merito l'Italia non può essere vostra patria e la Francia vi accoglie a braccia aperte. Rispondete alla sua chiamata. La Francia di solito accoglie generosamente gli stranieri». «Padre mio», disse Albert con un sorriso, «si vede bene che non conoscete il signor conte di Montecristo. Le sue soddisfazioni sono al di fuori di questo mondo. Egli non aspira agli onori. Gliene basta quel tanto che gli possa procurare un buon passaporto. Ecco la cosa più giusta che abbia mai sentito sul mio conto», replicò Montecristo, con uno di quei sorrisi che un pittore non sarà mai in grado di dipingere. Thank you.